Luci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, anche oggi con voi uno degli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri e della cultura, gli incontri di Voci in Scena. L'intervista di oggi è di Elisabetta Fiorito. Annalisa Struppa inizia lo studio del pianoforte sin da giovanissima, si diploma in canto con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore sotto la guida di Chi Tai Li presso il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia. Si esibisce ad Opera Alia nel 2009 a PEX, in duetto insieme a Placido Domingo, canta in Otello, Suor Angelica, La Traviata, Rigoletto, Carmen, ma è proprio all'Opera di Roma che per la prima volta interpreta il ruolo di Rosina nel Barbiere di Siviglia. Davide Luciano nasce a Benevento da una famiglia di musicisti, inizia ad 8 anni lo studio del pianoforte che affiancherà quello del basso, delle percussioni, della chitarra. All'età di 19 anni inizia a studiare canto sotto la guida del maestro Zarrelli. Nel 2012, come esordiente a soli 24 anni, debutta nel ruolo di Pappageno nel Flauto Magico. Interpreta poi Don Profondo nell'ambito del Rossini Opera Festival e prende parte alla produzione dell'Italia in Algeri, a Caracalla, quest'anno è Figaro nel Barbiere di Siviglia. Siamo nell'atmosfera ovattata del Teatro dell'Opera di Roma, in scena a Caracalla dal 23 luglio all'8 agosto il Barbiere di Siviglia, musica di Gioacchino Rossini, il capolavoro di Rossini, e abbiamo con noi colei che interpreta Rosina, Annalisa Struppa, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Poi Figaro, Davide Luciano, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto iniziamo perché è un Barbiere di Siviglia abbastanza particolare, ambientato negli anni 30-40, quindi un Barbiere di Siviglia swing. Questa regia, devo dire, è favolosa e molto accattivante. Io sono certa che il pubblico sarà rapito da questo approccio così nuovo all'interno del meraviglioso contesto delle Terme di Caracalla. È proprio un musical, è come se fosse un musical americano, ma con la musica di Gioacchino Rossini. Per cui tutti i personaggi, per esempio, io interpreterò Twitty nella gabbietta, quindi Rosina, che poverina, è sempre rinchiusa, è segregata dal tutore Bartolo che non la fa uscire di casa. Che sarebbe con il gatto Silvestro. Che sarebbe. Sì, esatto. È molto simpatico come allestimento, per cui anche noi che interpretiamo questi personaggi, veramente, oltre a cantare, ci divertiamo. E invece Figaro come è interpretato? Figaro è il solito tuttofare, è un po' come il, diciamo, Totò truffa tutto della Fontana di Trevi, quello che con i suoi imbrogli, con la sua astuzia, riesce sempre a risolvere i problemi, in particolare riesce pian piano a risolvere il problema amoroso tra Rosina e il mio migliore amico. È l'unica persona di cui io mi posso fidare, perché all'interno della mia casa di Berta non mi posso fidare, perché appunta su un taccuino tutte le cose sbagliate che io faccio e le mostra a Bartolo. Bartolo è interessato solo alla mia eredità, quindi mi vuole sposare non per amore ma solo per la mia eredità. Poi è vecchio e brutto, diciamolo. Esatto. E quindi mi innamoro di questo bel giovane, Lindoro, che è... apre le porte del mio cuore e della mia gabbia. Ecco, ma è un barbiere quindi anni 40, come quelli che si vedono nei film, un po' in bianco e nero, con il profumo che si metteva sulle guance dopo la rasatura? Esatto, esatto. E ci saranno, essendo in un contesto così grande come Caracalla, ci saranno anche divani grandi di scenografia, forbici. Le mie forbici sono grandi, sono 1,5 metri, quindi sarà divertentissimo. E probabilmente hanno scelto apposta questa scenografia così grande per un contesto così grande, appunto, che ospita 4.000 spettatori. Allora andiamo un attimo alle voci, perché Rossini, tanto per entrare un po' non nei tecnicismi, però per far capire, per far avvicinare anche all'opera persone che generalmente non la seguono. Intanto il Barbiere di Siviglia è molto molto divertente, le arie sono tutte quante famosissime, per cui anche chi non conosce l'opera può venire e divertirsi. Perché però a un certo punto Rossini scrive sempre per i mezzo soprani, non c'è questa cosa che fa Puccini per questi soprani che spiccano, invece Rosina è un mezzo soprano, lei è un mezzo soprano, perché? Esattamente, Rossini amava moltissimo la voce del mezzo soprano, c'è da dire anche perché fu sposato con Colbran, che era un mezzo soprano Falcon, quindi un mezzo soprano acuto, e quindi scriveva moltissimo per la sua voce. Siamo state molto fortunate noi mezzi soprani, perché possiamo godere della sua scrittura, ma anche un po' per il carattere delle sue eroine, no? Perché mentre negli altri maestri d'opera, compositori d'opera, sono tutte quante donne abbastanza fragili, Mimì muore di tisi e poi la Traviata, insomma ci sono praticamente queste donne che subiscono la vita. In Rossini invece Rosina, ed è questo che vogliamo dire ai radioascoltatori, è un personaggio che sa, che è intraprendente, che praticamente tesse trame affinché poi raggiunga il suo risultato. Proprio Rosina lo dice proprio nell'aria: io sono docile, sono obbediente, ma se mi toccano dove il mio debole, sarò una vipera, sarò. Per cui Rosina è veramente un personaggio dolce, ma nello stesso tempo molto maliziosa, furba, e in questa regia è, diciamo, un adolescente, interpreta un adolescente alle prese con il primo innamoramento, quindi queste adolescenti scalpitanti che non possono stare ferme, che esuberanti, ecco, esplosiva, è una Rosina esplosiva, oserei dire così. C'è Figaro, che è un baritono, anche qui un ruolo, cioè l'opera si chiama Figaro e Figaro è un baritono e non è un tenore, quindi anche qui Rossini era particolare. È un po' il tuttofare, ma è un po' l'italiano, no? Che si arrangia, fa tutti i mestieri, o sbaglio? Diciamo che Rossini doveva sempre andare controcorrente, doveva dare importanza alla donna. Con Figaro lui praticamente dava voce a un personaggio, un certo personaggio che fa parte appunto dell'italiano, diciamo, medio, che si abitua, che si adatta a tutte le situazioni, in particolare secondo me al napoletano, perché lui è stato tanti anni a Napoli. Lei è napoletano? Io sono di Benevento, vivo a Pozzuoli, quindi sì. Per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, musicale, tecnico-musicale del ruolo, invece è un personaggio un po' particolare, per il fatto che è una scrittura tra il tenore e il baritono, una scrittura molto particolare, ed è stata l'unica volta che ha scritto in questo modo Rossini. Infatti i musicologi sono ancora si fanno domande, ma Figaro forse doveva essere un baritenore, e in realtà lui scriveva per le voci che aveva, per i cantanti che aveva, e quindi in quel contesto probabilmente aveva un cantante dalle doti spiccate sia negli acuti che nei gravi, che quindi gli consentì di scrivere un ruolo così brillante e così, così bello. Infatti tanti tenori poi si sono cimentati anche nel ruolo di Figaro, per far vedere che tutto sommato cercavano di tenere questo ruolo, no? Come tanti soprani, la Callas ha cantato in Rosina. Sì, più che altro i soprani nel ruolo di Rosina, sì sì. Com'era la Callas quando cantava Rosina? Un po' strano, un po' particolare. Io trovo che la Callas sia stata meravigliosa, sempre, sempre veramente una grandissima artista da cui possiamo solo imparare. Però certo c'è da dire che il colore del... quando Rosina viene interpretata da un soprano, ovviamente sì, l'aria viene alzata, ci sono delle variazioni appositamente dedicate alla vocalità di soprano che interpreta questo ruolo, molto più acute, sì. Però ecco, proprio il colore della voce cambia. È come se suonassimo lo stesso brano con un violino o con una viola, un violoncello. Ovviamente il colore è diverso, è ugualmente piacevole, ma all'ascolto c'è una percezione proprio diversa. È come, del resto, come la Carmen. Quanti soprani cantano Carmen? È un altro mezzo soprano, lo spieghiamo poi per i radioascoltatori. È un mezzo soprano, Barbieri è un mezzo soprano d'agilità. Rossini scriveva soprattutto per mezzi soprani d'agilità, quindi con queste la coloratura, no? E mentre invece... non perché correte in scena, no? Perché sembra anche sì. Balliamo, corriamo. Questa regia è piena di cose da fare, soprattutto per Rosini, no, ma anche per me, no? Perché lei mentre canta Figaro qua, Figaro là, balla, c'è il balletto? Sì, direi che c'è un balletto, ci sono vari balletti, salti e cose del genere, insomma, no. Ci divertiamo e non è facile perché c'è il fiato, c'è da calcolare tante cose, ma con Rossini è una follia organizzata. Mi è giunta voce che la scena del temporale famosa, in che si svolge sempre, no, in casa di Bartolo, dove praticamente Rosina deve fuggire, no, e c'è tutto quanto una messa in scena. Ma è vero che sembra un po' Cantando sotto la pioggia, Singing in the Rain, è così? Esattamente. Tra l'altro abbiamo un meraviglioso corpo di ballo, il corpo di ballo di Luciano Cannito, che riempie veramente le scene, le colori. Ora le movimenta, sono bravissimi. All'interno della regia di Lorenzo Mariani, devo dire che il corpo di ballo, le comparse, tutti i figuranti veramente rendono dinamica ogni scena e ci aiutano molto in questo, devo dire. Riepilogando allora, Il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, scena dal 23 luglio all'8 agosto alle Terme di Caracalla di Roma, con Annalisa Stroppa nel ruolo di Rosina e Davide Luciano nel ruolo di Figaro. Grazie. Vi aspettiamo. Grazie, ciao. Ed è tutto per la puntata di oggi di Voci in Scena. L'appuntamento è domani alla stessa ora.